Quando la guardia del palazzo ebbe fatto evacuare la piazza sparando a salve davanti ai piedi e rasente le teste di Manuel Pereira da Ponte Martins, quello vero, dittatore massacrato dalla folla, fu ritrovato solo un magma irriconoscibile di ossa e di carni maciullate. Fu gettato nella concimaia e all'approssimativo sosia che aveva fatto fuori fu celebrato un funerale in cui il popolo, il governo, la famiglia e gli amici versarono le stesse lacrime. Il vescovo fece al Vaticano una richiesta di beatificazione. Il vecchio da Ponte morì di paterno dolore e l'amico Edoardo Rist ereditò il potere rimasto vacante. Ecco, è questa la storia che avrebbe dovuto essere raccontata.